vidi uno che chiedeva di me. Mi dissero che era il signor di Cambremer. E allora, per mostrarmi che mi aveva riconosciuto, avete sempre le vostre soffocazioni, mi chiese. E alla mia risposta affermativa, come vedete, questo non impedisce la longevità, mi disse, come se fossi decisamente centenario. Parlando, tenevo gli occhi fissi su due o tre particolari che potevo mentalmente far rientrare in quella sintesi, per il resto affatto diversa, dei miei ricordi, cui davo il nome del mio interlocutore. Ma per un attimo lui girò a mezzo la testa, e allora vidi che era reso irriconoscibile dall'aggiunta di enormi borse rosse sulle guance, che gli impedivano di aprire del tutto la bocca e gli occhi, tanto che rimasi inebetito, senza il coraggio di guardare quella sorta d'antrace di cui mi sembrava più conveniente che fosse lui a parlare per primo. Ma lui, come un malato coraggioso, rideva senza farvi la minima allusione, e io temevo di mostrarmi privo di cuore se non gli chiedevo che cosa avesse, di tatto se glielo chiedevo. «Ma non vi vengono più di rado con l'età?» mi chiese, continuando a parlare delle soffocazioni. Gli dissi di no. «Ah, invece mia sorella ne ha sensibilmente meno d'una volta», replicò lui col tono di chi contraddice, come se le cose non potessero andare per me diversamente che per sua sorella, e l'età fosse un rimedio di cui, dal momento che aveva fatto bene a Madame de Goucourt, si rifiutava ad ammettere che non fosse salutare per me. Poi che s'era avvicinata a Madame de Cambremer le Gandin, avevo sempre più paura di apparire insensibile, non deplorando quel che notavo sul volto del marito, e tuttavia non osavo parlarne per primo. «Siete contento di vederlo?» mi chiese. «Sta bene?» replicai con tono incerto. «Mio Dio, tanto male non sta, come vedete». Non s'era accorta di quel male che a me offuscava la vista e che era semplicemente una delle solite maschere che il tempo aveva applicata sul volto del marchese, ma a poco e ispessendolo così gradualmente che la marchesa non s'era accorta di niente. Quando il signor di Cambremer ebbe esaurito le domande sulle mie soffocazioni, fu la mia volta di informarmi a bassa voce con qualcuno se la madre del marchese fosse ancora viva. In effetti, nel prendere coscienza del tempo trascorso, accostare è solo il primo passo. All'inizio si fa molta fatica a rendersi conto che è passato tanto tempo, e poi che non ne sia passato di più. Non si era mai pensato che il XIII secolo fosse così lontano. E poi si stenta a credere che possano esistere ancora delle chiese del XIII secolo, che pure in Francia sono innumerevoli. In pochi istanti si era compiuto in me quel lavoro che si compie più lentamente in chi, avendo fatto fatica a credere che una persona conosciuta da giovane abbia 60 anni, 15 anni dopo ne fa ancora di più, scoprendo che è ancora viva e che non ne ha più di 75. Chiesi al signor di Cambremer come stesse sua madre. «È sempre meravigliosa», rispose, usando un aggettivo che, in contrasto con le tribù dove si trattano senza pietà i genitori anziani, si applica in certe famiglie ai vecchi, nei quali l'uso delle facoltà più materiali, come sentire, andare a messa a piedi e sopportare con insensibilità i lutti, assume agli occhi dei figli l'impronta d'una straordinaria bellezza morale. Altri, il cui viso era intatto, sembravano soltanto impacciati quando si trattava di camminare. Dapprima si pensava che avessero male alle gambe, solo dopo si capiva che la vecchiaia aveva messo del piombo nelle loro suole. Altri li imbelliva, come il principe d'Agrigento, quell'uomo alto, smilzo, dallo sguardo spento, dai capelli che sembravano destinati a restare eternamente rossastri, era diventato, con una metamorfosi analoga a quella degli insetti, un vecchio nel quale i capelli rossi, visti per troppo tempo, erano stati sostituiti, come una tovaglia di cui ci si sia serviti troppe volte, da capelli bianchi. Il suo torace aveva preso una corpulenza inedita, robusta, quasi guerriera, che aveva letteralmente fatto scoppiare la fragile crisalide a me nota. Una gravità, conscia di se stessa, traluceva dai suoi occhi, dove si tingeva ad una benevolenza nuova, rivolta verso tutti e ciascuno. E poiché, malgrado tutto, c'era ancora una certa somiglianza fra il potente principe Dora e il ritratto serbato dal mio ricordo, ammiravo la forza di rinnovamento originale del tempo, che, pur rispettando l'unità dell'essere e le leggi della vita, sa cambiare così la scena, introducendo arditi contrasti in due aspetti successivi d'un medesimo personaggio. Molte di quelle persone, infatti, le si identificava subito, ma come ritratti assai mediocri, raccolti per l'esposizione di un artista impreciso e malevolo che a uno indurisce i lineamenti, a un'altra toglie la freschezza del colorito e la leggerezza della figura o incupisce lo sguardo. Confrontando queste immagini con quelle che avevo sotto gli occhi della memoria, quelle che mi venivano mostrate per ultime mi piacevano di meno. Come tante volte troviamo meno buona e scartiamo una delle fotografie fra cui un amico ci ha pregati di scegliere, così davanti a ogni persona e all'immagine che mi mostrava di sé avrei voluto dire: no, non questa, non siete venuto bene, non sembrate neanche voi. Non avrei osato aggiungere: invece del vostro bel naso dritto vi hanno fatto il naso a becco di vostro padre, che a voi non avevo mai visto. E in effetti era un naso nuovo e familiare. Insomma, l'artista, il tempo, aveva reso tutti quei modelli in modo tale che erano riconoscibili, ma non somiglianti, non perché li avesse imbelliti, ma perché li aveva invecchiati. Questo artista, d'altronde, lavora molto lentamente. La replica del viso di Odette, di cui il giorno del mio primo incontro con Bergotte avevo scorto la traccia appena abbozzata nel viso di Gilbert, il tempo l'aveva sviluppata infine, sino alla più perfetta somiglianza, agendo come quei pittori che stanno a lungo su un'opera e la completano anno dopo anno. Se certe donne dichiaravano la propria vecchiezza truccandosi, essa era resa invece evidente dall'assenza di trucco in certi uomini, sul cui viso non l'avevo mai espressamente notato e che mi sembravano, tuttavia, assai cambiati da quando, scoraggiati nello sforzo di piacere, avevano smesso d'usarlo. Fra questi c'era Le Grandin. L'eliminazione del rosa, che non avevo mai supposto artificiale, dalle sue labbra e dalle sue gote, dava al suo viso l'apparenza grigiastra e anche la precisione scultorea della pietra. Scolpiva i suoi lineamenti allungati e tetri come quelli di certi dei egizi. Dei, o piuttosto, fantasmi. Aveva perduto non solo il coraggio di dipingersi, ma di sorridere, di far brillare lo sguardo, di dire cose ingegnose. Ci si stupiva a vederlo così pallido, abbattuto, a non sentirgli pronunciare che poche parole insignificanti come quelle che dicono i morti quando vengono evocati. Ci si chiedeva che cosa gli impedisse d'essere vivace, eloquente, affascinante, come ce lo chiediamo davanti al doppio insignificante d'un uomo brillante in vita, al quale uno spiritista pone domande che pure si presterebbero a sviluppi affascinanti. E ci si rispondeva che questa causa, per la quale alle Grandin colorato e rapido si era sostituito un piccolo fantasma pallido e pensieroso di Le Grandin, era la vecchiaia. In non pochi finivo col riconoscere non solo loro stessi, ma anche coloro che essi erano un tempo. Per esempio, Schi, modificatosi non più d'un fiore o d'un frutto nell'insecchire. Era un tentativo informe che confermava le mie teorie sull'arte, Altri, essendo persone di mondo, non erano certo degli amatori d'arte. Ma anche loro la vecchiaia non li aveva maturati, e anche se si circondava d'un primo cerchio di rughe o di un'aureola di capelli bianchi, il loro viso paffuto era lo stesso e conservava il brio dei 18 anni. Non erano dei vecchi, ma dei 18enni estremamente sciupati. Ci sarebbe voluto poco per cancellare i segni della vita, e la morte non avrebbe faticato per restituire al loro viso la sua giovinezza più di quanto si fatica per ripulire un ritratto cui solo un po' di sporco impedisce di brillare come un tempo. Pensavo così all'illusione di cui siamo preda quando, sentendo parlare d'un vecchio celebre, crediamo in anticipo alla sua bontà, alla sua equità, alla sua dolcezza d'animo, perché sentivo che 40 anni prima dovevano essere stati dei giovani terribili, e non c'era ragione di supporre che non ne avessero conservato la vanità, la doppiezza, la boria e le astuzie. Eppure, in totale contrasto con costoro, ebbi la sorpresa di conversare con uomini e donne un tempo insopportabili e che a poco avevano perduto tutti i loro difetti, come se la vita, frustrando o appagando i loro desideri, ne avesse assottigliato la presunzione o l'amarezza. Un matrimonio ricco, che vi libera dalla necessità della lotta o dell'ostentazione, l'influsso stesso della moglie, la conoscenza acquisita lentamente di valori diversi da quelli cui crede in modo esclusivo una giovinezza frivola, li avevano aiutati ad ammorbidire il loro carattere e a mostrare le loro qualità. Sembrava che avessero assunto, invecchiando, una personalità diversa, come certi alberi di cui l'autunno, variando nei colori, sembra cambiare l'essenza. Quella della vecchiaia, per loro, si manifestava veramente, ma come qualcosa di immorale. In altri era piuttosto fisica e talmente nuova che la persona, per esempio Madame d'Arpajon, mi sembrava al tempo stesso conosciuta e sconosciuta. Sconosciuta perché mi riusciva impossibile sospettare che fosse lei, e rispondendo al suo saluto non riuscii a nascondere il lavorio mentale che mi faceva esitare fra 3 o 4 persone, fra cui Madame d'Arpajon non era compresa, per sapere a chi stessi restituendolo, con un calore, peraltro, di cui lei dovette stupirsi, perché nel dubbio, temendo d'essere troppo freddo se si trattava di un'amica intima, avevo compensato l'incertezza dello sguardo con il calore della stretta di mano e del sorriso. Ma d'altro canto, il suo nuovo aspetto non mi era sconosciuto. Era lo stesso che avevo notato spesso nel corso della mia vita in donne anziane e robuste, ma allora senza sospettare che avessero potuto assomigliare molti anni prima a Madame d'Arpajon. Era questo aspetto così diverso da quello che conoscevo della Marchesa, che la si sarebbe detta un essere condannato, come il personaggio d'uno spettacolo fiabesco, a comparire dapprima come fanciulla, poi come massiccia matrona, e che presto sarebbe di certo ricomparsa come vecchia curva e vacillante. Sembrava che respingesse a stento, come una nuotatrice appesantita che vede ormai la riva a una distanza remota, i flutti del tempo che la sommergevano. A poco, tuttavia, a forza di guardare il suo volto esitante, incerto come una memoria infedele che non riesce più a trattenere le forme del passato, riuscì a ritrovarne qualche tratto, ricorrendo al piccolo gioco d'eliminare i quadrati, gli esagoni che il tempo aveva tracciato sulle sue guance. Non sempre, d'altronde, esso metteva sulle guance delle donne soltanto delle figure geometriche. Su quelle, pur rimaste tanto simili, della duchessa di Germain, ma composite ora come un torrone, distinse una traccia di verderame, una piccola porzione rosa di conchiglia tritata, una sporgenza difficile da definire, più piccola d'una pallina di vischio e meno trasparente d'una perla di vetro.